se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. Massimo, possiamo centrare un posto in Champions. Chiedo a lei, che conduce una trasmissione così credibile, seria. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantanei, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. No, io voglio chiedere a voi, piuttosto, ai tifosi dell'Inter, ma anche a quelli che non sono dell'Inter, a tutti i tifosi italiani, se siete arrabbiati e come state inghiottendo, come state metabolizzando tutto questo veleno. Veleno! Se mi baci ti do il mio veleno, una rosa scarlatta sul seno che dopo t'amerò. Veleno, dei miei baci non puoi fare. Cioè, ai tifosi dell'Inter in particolare voglio chiedere se sono arrabbiati e così arrabbiati con Gervasoni, o se siano più offesi, forse, come io sarei, per tutta questa commedia che sta andando in scena. Protagonista principale Massimo Moratti l'altra sera dopo Atalanta-Inter. No, il commento lo faccio solo a rigore, perché però mi dicono che è una partita. No, ma il gol è stato rigore, 3-2, poi dopo hanno fatto altri due gol, ha meritato. No, un rigore di questo genere cambia veramente una partita, perché un rigore ingiusto mette una squadra in condizione di sentirsi non considerata. Io credo che siano 20 o 21 le partite in cui non ci danno rigore. Credo che statisticamente sia impossibile non aver avuto occasione da rigore in 21 partite, compreso oggi. Un rigore inesistente che ti viene dato contro, allora tutta la buona fede di tutti, ma io non ci credo. Non credo alla buona fede, no. Tutti i baci nominati. E beh, però l'anno scorso, come è stato scritto oggi da Marco Ansaldo, ad esempio, sulla Stampa, a proposito, speriamo che l'allarme bomba sia un fake, come immagino, la Juventus, l'Inter l'anno scorso ironizzava quando la Juventus lamentava di non ricevere rigori da 19 partite, ma anche questo ci sta. E poi c'è anche un altro dato statistico: com'è che il calcio è di nuovo marcio, scrive Marco Ansaldo, mentre era pulito nel periodo in cui gli arbitri non fischiarono un rigore contro l'Inter per 53 giornate, dal 2 marzo 2008 al 20 settembre 2009. Torniamo alla commedia, protagonista principale Massimo Moratti, la spalla. 800240024, voi invece siete gli spettatori non paganti ma convocati e intervenenti. Ebbene, la spalla è Paolo Bonolis. Lo sembra una sceneggiatura, perché sembra una sceneggiatura, perché sembra grottesco che una squadra abbia dalla sua costantemente decisioni giuste o meno giuste, che comunque sia sono a vantaggio dei risultati importanti, che comunque la squadra rossonera probabilmente meriterebbe lo stesso. Sembra surreale che tantissimi fatti importanti che potevano essere decisioni fatte serenamente a favore della squadra dell'Inter siano state completamente non prese in considerazione, e altre che non erano minimamente da fischiare siano state fischiate contro. Sembrerebbe quasi che ci sia una manovra che la porti a ridimensionare i suoi legittimi obiettivi, che poi conquisterà o non conquisterà saranno problemi suoi. Ti sembra ci sia il Milan dietro a questo, a quello che sì, tu dici? Allora, la sceneggiatura, per come la stanno portando ora, sembrerebbe raccontare questa trama. Vorrei, come hai voglia che vorrei sbagliarmi, però mi sembra questo. Dunque, una sceneggiatura, Paolo Bonolis di sceneggiature di pacchi se ne intende, dietro la quale ci sarebbe il Milan. Moratti torna in scena da attore protagonista e bam, un'altra legnata. Non ho cambiato idea, che poi sia arrabbiato o no, ma non ho cambiato idea. Basta vedere come sta andando sto campionato, soprattutto nei nostri riguardi, quindi quando c'è una volontà di colpire comunque lo si fa. Nel dubbio un rigore su Rocchi non si dà, nel non dubbio, perché non è esistito niente, il rigore contro di noi si dà, e comunque 21 giornate che non vediamo un rigore. Ormai addio alla Champions, Presidente. Beh, penso che sia difficile. veleno. Peccato che Tagliavento a Firenze della sceneggiatura non sia stato avvertito nei particolari. A proposito, poi parliamo anche dei DASP in tribuna VIP, ma non sia stato avvertito della sceneggiatura nemmeno il povero Ranocchia, no? Per quel gol sbagliato. Guarin sul fondo, ultima possibilità, palla deviata, porta vuota Ranocchia, incredibile errore di Ranocchia con la porta spalancata. Moratti a bocca aperta, non crede a quello che ha visto. Una rosa scarlatta. Beh, qualche errore di comunicazione ci deve essere stata. 800 24 00 24, qui di errori di comunicazione non ce ne sono perché siamo in diretta e parliamo io e voi. E parlo con, grazie per aver risposto alla convocazione, Riccardo Signori, inviato del giornale. Ciao Riccardo. Buongiorno a tutti. Allora, secondo me malafede, malaffare, dichiarazioni molto gravi adesso al di fuori dello scherzo, che poi servono secondo me a nascondere altri dettagli, no? Come una squadra sbagliata, forse una preparazione sbagliata, un sacco di sfiga per gli infortuni, perché mettiamoci anche questa, però mi sembra un paravento che non regge, mi sembra anche un paravento molto pericoloso. Anche io la penso così, perché non bisogna mai nascondersi. Moratti tra l'altro è un uomo navigato, ne ha viste di tutti i colori, ne ha anche fatte di tutti i colori con allenatori, giocatori eccetera. Quindi a me ieri, cioè, queste dichiarazioni che ha fatto alla sera a San Siro, dove io ero presente e l'ho visto determinato nell'idea di fare questa dichiarazione, non voleva dire altro, solo questo. Mi ha colpito molto che l'abbia anche ripetuta a mente fredda, quindi con altrettanta determinazione, forse più pericolosa. Però anche lui sa benissimo di essere un uomo senza armi. Io credo che questo modo di parlare, questo modo di farsi sentire, sia quello di uno che si è sentito disarmato, perché ormai non ha più nessuna speranza. Dopo la Juve ha subito sì dei torti, qualcuno c'è stato anche contro l'Atalanta nella partita d'andata, anzi forse quello era il torto più vero fra i due che ha subito tra andata e ritorno, però l'ha preso più alla leggera, perché sperava ancora di andare in Champions, che per l'Inter è un fattore determinante. Non dimentichiamo che comunque ci sono problemi economici eccetera eccetera, certo. Andare in Champions significa qualcosa per una grande squadra come l'Inter, sì. Qui era disarmato, e allora essendo disarmato ha cominciato a tirare al vento, dimenticandosi, ma sapendo che invece i problemi sono altri, sì. Tutti i giocatori che ha comprato quest'anno, almeno in parte, sono giocatori che sono stati inutilizzati. Abbiamo visto Schelotto, abbiamo capito perché è andato via da Bergamo, vedendo il rapporto fra lui e gli ex compagni. Sì. Abbiamo visto, sì, che Kuzmanovic è stato comprato e è rimasto lì. Rocchi, uno che ha fatto un gol in 14 mesi. Hanno preso Silvestre e poi l'ha messo via. C'è Jonathan che forse potrebbe anche cambiare mestiere, non lo so. Quindi, voglio dire, è tutta una serie di giocatori che sicuramente non servono a questa Inter. In compenso hanno mandato via magari dei giovani che stranamente Stramaccioni ha snobbato, non so se per sua volontà o volontà altrui, sì. Sto parlando di Longo, di Levaia, che abbiamo visto anche a San Siro, che tutto sommato poteva servire all'Inter. Parliamo anche di Duncan, il giocatore che è nato a Livorno, che potrebbe benissimo stare lì al posto di Schelotto e Kuzmanovic. L'Inter ha dato Livaia e ha preso Schelotto, guardate cosa è successo. Certo. Quindi tutte queste cose, oltre agli infortuni che sono troppi, sì, e troppo frequenti, e troppo frequenti le ricadute, e qualcuno dovrebbe spiegare perché. Sì. Mettiamoci anche la fragilità che Moratti ha notato e che forse è dovuta all'inesperienza dell'allenatore. Mettiamoci tante cose, oltre al fatto che poi se uno sbaglia il gol davanti alla porta, chi deve dare la colpa non si capisce, il caso Ranocchia, poveraccio, è evidente. Mettiamoci una difesa che è sempre in difficoltà, perché non dimentichiamolo. A me ha fatto sincero dispiacere, come amante dello sport e del pallone, vedere Samuel in quelle condizioni, non per colpa sua, ma perché evidentemente, certo, il tempo lavora male per tutti, e anche gli infortuni, vedere come è stato anche così scherzato dai suoi avversari. Certo, certo. No, poi Samuel, se c'è un grande giocatore, o forse ex grande giocatore in questa Inter, è proprio Walter Samuel. Riccardo, ti chiedo un istante di pazienza mentre mi dicono che sono sempre contro l'Inter, che sono un somaro, che eccetera eccetera, non lo so, io non sono assolutamente contro l'Inter, io sono contro queste prese di posizione che non hanno senso. Onestamente l'Inter oggi è una squadra che dal punto di vista dell'organico merita la classifica che ha, e su questo ho pochi dubbi. Tutti convocati. gli altri messaggi: sono tifoso non fanatico, ma l'arbitraggio era a dir poco scandaloso, ogni persona può sbagliare, ma questi li vedeva anche un cieco, e sono due, sono anche cinque, se per questo, caro ascoltatore. Oppure sono tifoso dell'Inter e sono arrabbiato per il comportamento poco impegnato dei giocatori in campo, eccetera eccetera eccetera. Dicevo, Riccardo Signori, inviato del Giornale, mi domando il motivo però di queste manie di persecuzione che di tanto in tanto ritornano, no? Questa squadra merita la classifica che ha, anche perché è stata scalognata, gli infortuni gli hanno tolto un sacco di giocatori, ultimo Cassano che già si sapeva non stava bene, è stato rischiato e adesso potrebbe star fuori due mesi, chiudendo la stagione e probabilmente la sua avventura nerazzurra. Poi si può massacrare Rizzoli dopo una partita che la Juventus ha dominato, si può massacrare Gervasoni, però mi sembra che la realtà sia un po' più ampia. Anche secondo me l'Inter è stata sfortunata in maniera totale, devo dire, nell'infortunio di Milito, che si è fatto male subito dopo la campagna acquisti invernale. È vero che avevano preso Rocchi, e quindi insomma anche lì qualcuno deve raccontare perché ha preso Rocchi, con tanto rispetto per Rocchi fra l'altro. Ma quindi la sfortuna vera è stata quella di aver perso Milito, che è un giocatore importante per la squadra, quando sta bene è un uomo determinante che fa gol e fa anche squadra. Sul resto secondo me andrebbe rivisto molto tutta la valutazione di tutta la stagione dell'Inter. Ora leggevo qui e là, perché anch'io leggo i tifosi interisti che sono sempre arrabbiati, ma queste sono cose che ogni tanto vengono sempre fuori dall'Inter, vengono fuori sempre nello stesso modo, vengono fuori sempre con una rabbia contro qualcuno, qualcuno però è quello con cui ti allei anche dal punto di vista della politica sportiva, diciamo Juventus, tanto per dire un nome, sì. Quindi bisognerebbe spiegarsi anche queste cose. Moratti è sicuramente un personaggio che ha una grande piacere di essere tifoso, però ogni tanto dovrebbe ricordarsi di fare anche il presidente e di conseguenza dire le cose come stanno anche all'interno del suo gruppo, perché comunque l'Inter ha tanti problemi interni, che sarà sempre la solita storia, però è sempre quella che ci viene raccontata e quella che si riproduce. Allora perché c'è il grande tale e tal'altro, perché è mandato via i giocatori bravi, voglio dire Balotelli, voglio dire Destro. Credo che il fatto che Balotelli sia tornato al Milan non abbia fatto molto piacere a Moratti, nonostante sì, la plomb, gli ha dato fastidio. Quindi sì, tutte queste cose messe insieme, oltre ai risultati che non ci sono, ma non ci sono perché la squadra gioca male, siamo onesti, sì, perché la squadra sbaglia dei gol e prende troppi. La squadra gioca male, prende troppi gol e non ha nemmeno i giocatori, a essere onesti, perché comunque io vedo un Inter in questo momento di bassissima qualità, proprio tecnica, complessiva. Ma sicuro, ma ti dirò una cosa però, loro dimenticano anche il punto di partenza di questa stagione. Allora, in questa stagione, più o meno tutti noi che seguiamo il calcio avevamo fatto due calcoli, avevamo detto Juventus e Napoli sembrano squadre sopra le altre, sì, o comunque messe meglio rispetto alle altre, poi c'è un gruppo dal quale può venire fuori la terza. In questo gruppo, fra l'altro, era messo forse all'ultimo posto il Milan, fra l'altro. Ecco, il Milan, caso strano, invece è al terzo posto. Nel gruppo, la squadra che doveva avere comunque una superiorità o perlomeno un qualcosa in più per farcela poteva essere l'Inter, perché sembrava che l'Inter fosse ancora una squadra composta, magari da giocatori un po' invecchiati, con qualche giocatore nuovo, Handanovic e Palacio erano già preventivamente acquisti azzeccati, come lo so, ma hanno dimostrato di esserlo, fra l'altro, gli altri dice, vabbè, ce la possono fare. Quindi l'Inter aveva tutte le chance già all'inizio del campionato per arrivare al terzo posto, a prescindere dall'allenatore giovane e da come erano le altre squadre. E devo dire che essere a 21 punti oggi dalla Juve è una colpa dell'Inter, certo, e degli arbitri, o dei rigori non dati, o dei rigori subiti. Perché poi la cosa divertente, che ho trovato divertente, ma che forse c'è un risvolto in tutto questo dire, è quella di Moratti, anche degli interisti, che ultimamente si lamentano sì per i rigori magari che non hanno avuto, cioè che hanno dilato contro, ma si lamentano soprattutto i rigori che non hanno avuto. Sì. Oh, allora perché ti lamenti per dei rigori che non hanno avuto sempre, solo per quelli, non per, come nel caso specifico dell'altra sera, poteva lamentarsi dell'errore di Gervasoni, aveva tutte le ragioni, Gervasoni sì, certo, ha visto male. Devo dire, ha umanamente visto male, perché tu vedi una mano alzata e ti può sì, venire sì, anche sì, il dubbio che sia rigore. No, ecco, sbagliato, errore grave. Voglio dire, certamente ha fatto degli errori molto più macroscopici, se vogliamo essere sinceri. Mm. Però, voglio dire, perché ti lamenti sempre per i rigori che non ti danno? Perché li vuoi. perché vuoi spingere ad arteri. Sì, ma certo, perché... questo è un vecchio gioco. Questo allora, è un vecchio gioco molto scoperto, no? È la politica del lamento, ma che riguarda non solo l'Inter, no? Ogni tanto vengono aperti i dossier, sono stati aperti da tutti quanti, dalla Juventus alla... il Pescara forse non ne ha avuto tempo, però la politica del dossier l'ho sempre vista in ogni colore, in ogni... e sotto ogni maglietta, pertanto è una politica chiara e scoperta. Riccardo, ti ringrazio e ti saluto. Grazie a voi, vi seguo sempre con passione, quindi sono contento di essere intervenuto. Sempre convocato, naturalmente. Riccardo Signori, inviato del Giornale. Allora, noto quantomeno dagli sms 349-238-6666 che la campagna... la campagna di Moratti e Bonolis è appoggiata dalla gran parte dei tifosi. Vabbè, partiamo da Pietro da Milano. 800 24 00 24, numero verde. Sì, buongiorno Pietro, vicepresidente del primo Interclub di Milano, l'Interclub Templari. È chiaro che non sono d'accordo con le parole del signor Signori, c'è molta demagogia nei suoi discorsi. È chiaro che l'Inter quest'anno non è particolarmente competitiva, ma non sta scritto da nessuna parte che una squadra che è da quinto o sesto posto non possa giocarsi le sue carte per arrivare terza. E se questo è figlio di una gestione sbagliata da parte dei vertici del calcio italiano, vertici che in tempi remoti hanno dimostrato che erano vertici che facevano cose oscene, è chiaro che il sospetto è una cosa giusta. Detto questo, vorrei ricordare a tutti i radioascoltatori che il signor Braschi con l'Inter ha un passato scabroso. Si ricorda una partita di Coppa Italia col Parma dove ha espulso tre giocatori nel primo tempo, arbitraggi osceni in un Udinese-Inter, in un Lazio-Inter. Sì. Chi Pietro, è interista a un certo livello conosce queste dinamiche. Pietro, qua. Visto che lei è interista di un certo... No, un attimo. Visto che lei è interista di un certo livello, le faccio una domanda molto diretta. Lei crede che la classifica dell'Inter sia colpa degli arbitri? L'Inter ha fatto una prima parte di campionato da secondo posto almeno. Il Milan la prima parte di campionato era da 13°-14°. Quindi questi quello che dati. Non ha fatto l'Inter in questa seconda parte di campionato l'ha fatto prima e viceversa. È chiaro che le decisioni arbitrali pro Milan durante l'arco del campionato e quelle contro l'Inter hanno creato un delta punti in classifica che ha proprio creato un delta punti che a 6 giornate dalla fine crea l'impossibilità all'Inter di potersi giocare le sue armi, le sue carte ad armi pari. Sì, però domenica mi sembra non sia andata esattamente così per il Milan. Ma, domenica no, ma alcune volte gli errori si compensano. È con l'Inter che spesso e volentieri sono sempre dalla stessa parte. Detto questo, poi finisco il mio dica. Volevo dire che non si è avuto il coraggio dopo Calciopoli di sradicare completamente le radici. Ci sono molti arbitri, e faccio anche i nomi, Bergonzi, Rocchi, Tagliavento, lo stesso Gervasoni che dal 2003 che è con l'AIA, che erano conniventi con il sistema, perché l'unico arbitro che ha avuto il coraggio di andare contro il sistema è l'arbitro Nuccini, che chiaramente si è tagliato le gambe da solo, perché avendo detto a Facchetti quello che sta succedeva nel mondo del calcio, ha finito di arbitrare. Gli altri, Pietro, dovevano essere eliminati. Mi permette solo un appunto, poi la saluto e la riconvoco quando vuole, perché è un piacere. Erano però gli stessi arbitri che ho letto oggi, non lo sapevo, non fischiarono un rigore contro l'Inter per 53 giornate, no? Tra il 2008 e il 2009. Cioè 53 sono tante, ed erano grosso modo gli stessi, 2008-2009. La chiudo così, purtroppo questa classe arbitrale a pensar bene è molto scarsa, e magari è stata scarsa anche negli anni che è andato a favore dell'Inter, però di decisioni oscene in quegli anni lì, anche se è vero che per tante giornate non sono stati dati rigori contro l'Inter, non ce ne sono state. Le cose oscene sono state fino al 2006 e negli ultimi due anni, probabilmente dovranno ridare i due scudetti alla Juventus, lasciamoli stare. No, ma io mi limito a fare l'avvocato del diavolo e a leggere certe statistiche. Massimo da Reggio Emilia. Buongiorno signor Pietro, grazie per la convocazione. Prego. Niente, io sono interista sfegatato, sì, antisportivo, tifoso, fazioso, insomma sono una persona orribile sotto quell'aspetto lì. Però guardi, per già una mi volta... sta simpatico, posso dire, già mi sta simpatico. Ecco, no, sono veramente... Io ho passato anni a dare sempre la colpa agli arbitri, però le dico la verità, mi sono anche un po' rotto le scatole, perché un conto nel 1998, faccio per dire, quando non diedero il rigore a Ronaldo, sì, che secondo me gli arbitri pesarono sull'Inter in maniera determinante, perché quella era una squadra che avrebbe potuto anche vincere lo scudetto e ci furono degli episodi che danneggiarono l'Inter. Ma quest'anno, ragazzi, ma è una squadra che fa morire da ridere. Cioè, ma voglio dire, ma domenica con l'Atalanta, ok, abbiamo preso un gol su un rigore che non, che non c'era, ma gli altri tre sono gol puliti. Tre gol presi in 12 minuti. No, se anche qui è statistica. Tre gol presi in 12 minuti. Gervasoni avrà avuto anche la coscienza sporca, però sono sempre tre gol che non ha segnato Gervasoni, presi dall'Atalanta in 12 minuti. Massimo, la ringrazio, le rinnovo la mia simpatia. Adesso ci fermiamo per la borsa e poi ripartiamo da Giacomo da Bari. 800 24 00 24. Ultima clamorosa opportunità proprio nell'extra time sul pallone. Ranocchia praticamente dalla linea di porta riesce col piattone a spedire altissimo, la disperazione per il difensore del Inter, impietrito in tribuna il presidente Moratti. Tutti convocati. Torniamo tra un po', stacchiamo anche da queste discussioni che poi continueremo insieme prima della fine del programma, perché sennò poi diventano francamente stucchevoli, anche se c'è qualcuno che si sta divertendo nel sentire queste polemiche. Non so, Giacomo da Bari, che intanto ringrazio perché è rimasto in linea. Giacomo? Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Ci provo! Mi dica! Salve, buongiorno! Salve, buongiorno! Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, convocatissimo come ogni pomeriggio. Bravo Giacomo! Allora, senta, io volevo un po' dare un consiglio a Bonolis, che stimo perché è un grandissimo presentatore, forse uno dei migliori che sono rimasti in Italia della vecchia, oltre alla vecchia guardia. Un consiglio per Bonolis e per Moratti. Io le consiglio di chiamare Tronchetti Provera, di mettere sotto controllo i telefoni del Milan, dell'Inter, della Juve, del Napoli, della Lazio, della Roma, così possono vincere i campionati per altri tre anni tranquillamente senza problemi. Questo l'ha detto lei, non lo dico, beh, no, guardi, è una battuta, visto che stiamo parlando del rigore di Leonardo, di Ronaldo, ma no, ma visto che ma è normale, questo è normale, ne parleremo sempre, ma visto che siamo in tema di battute e visto che vale tutto, visto che insomma entrano e hanno diritto di cittadinanza anche i comici in questa commedia calcistica, non so quanto degli equivoci, vale anche questo e via, torniamo agli scudetti veri o presunti, tanto non la smetteremo mai e quindi infatti io dico solo quindi una cosa, è inutile star lì. Dal 3-1 si perde 4-3, fa parte del gioco, sono stati più bravi le Tarantini, punto, basta. Sì, no, ma poi soprattutto insomma l'Inter ha preso, ripeto, al di là di quel rigore, quando era in vantaggio 3-1, ha preso tre fischi in 12 minuti. Grazie a Giacomo. Lara si volta dietro per festeggiare con la sua ammiraglia, per gettare anche uno sguardo a dove sono gli inseguitori e non si vede nessuno. Da solo, nel suo modo, Fabian Cancellara alla Ronde van Vlaanderen, semplicemente eccezionale. Primo nel 2010, terzo nel 2011, l'anno scorso una caduta con la frattura della clavicola e oggi torna al successo. Adesso Seth Malmark all'uscita della curva. Seth Malmark con Cancellara che lo affianca, ci sono altri corridori davanti. Cancellara la tris, anche in volata Fabian Cancellara, la tripletta nel suo giorno, perché chi ama il ciclismo, chi segue il ciclismo sa che il 7 è il numero preferito di Fabian Cancellara e oggi il 7 di aprile è andato a centrare il suo terzo successo alla Parigi-Roubaix. E io volevo apposta tornare a respirare un po' di polvere della domenica, ma di polvere quella buona, quella storica, leggendaria della Parigi-Roubaix, prima di tornare con gli ascoltatori che ci aspettano, 800240024, a respirare i veleni di oggi, ma non mettiamola giù tanto dura, sono veleni sportivi, almeno io li vivo così. Non potevo non fare due chiacchiere su questo mostro che è Cancellara con Pier Augusto Staggi, direttore di Tutto Bici e la nostra storica voce del ciclismo. Ciao Pier. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Qui gli arbitri non servono a niente. No, qui gli arbitri al massimo prendono nota. Prendono nota, esatto. Prendono nota. Senti, quanto è diventato grande con questa nuova impresa Cancellara? Adesso non voglio fare discorsi epocali e parlarti di libro d'oro del ciclismo, però è indubbio che abbia messo il cappello, anzi la corona, sulla sua carriera. Ma Fabian è sicuramente ad oggi uno degli atleti di riferimento del ciclismo mondiale, uno degli atleti più belli. E soprattutto, guarda, ti posso dire che ricorda per certi versi, anche se non hanno nulla in comune, ma per il fatto di creare l'attesa e poi non disattenderla, Marco Pantani. Ecco, anche l'appassionato di ciclismo al Fiandre e così domenica alla Roubaix si è messo davanti alla televisione per assistere a un grande spettacolo, per assistere a due classiche monumento, per vedere due gare bellissime, ma soprattutto aveva la consapevolezza e la quasi certezza matematica che Fabian Cancellara sarebbe stato l'uomo da battere e difficilmente sì. Avrebbe perso. Certo che, questo, certo che mi sarebbe piaciuto vedere il ragazzino lì con lui, Guarda, il ragazzino Sagan. Pierino La Peste, Peter Pan Sagan, l'abbiamo visto ed è stato bellissimo al Fiandre, sì. Addirittura c'è voluto forse il Fabian Cancellara più forte di sempre, sì. Per battere quel Sagan lì, perché è stato fenomenale. E, invece alla Roubaix abbiamo assistito a una gara totalmente diversa, abbiamo invece assistito a una vittoria del Fabian Cancellara più vulnerabile di sempre, perché ricordiamoci che era caduto due volte, sì. Era caduto anche a due giorni dalla Parigi-Roubaix in una ricognizione, in un tratto di pavé, aveva picchiato nuovamente la schiena ed era molto dolorante. Io l'avevo sentito al venerdì e mi aveva detto che non stava benissimo, ma che comunque avrebbe venduto cara la pelle. E così è stata, lui ha veramente vinto uno contro tutti, ha vinto praticamente da solo, portando rispetto per i suoi compagni di squadra, ma la radio sciacca a 70 chilometri si era già praticamente sfaldata, sì. Ha controllato, ha perso, come ha raccontato lui, ha perso in 3-4 occasioni la gara, in 3-4 occasioni l'ha vinta e soprattutto l'ha vinto con la testa, l'ha vinta veramente con la grande determinazione, perché lui non era al top, era veramente rinomato. Era pieno di ematomi, questo lo sapevamo in partenza. Ti chiedo ancora una cosa, Pier Augusto, giù dalla bici invece questo personaggio com'è? Guarda, Fabian Cancellara giù dalla bici è un personaggio, nonostante sia svizzero e tutti possano immaginare così nell'immagine collettiva un personaggio chiuso, lui è anche uno con un grande senso dell'umorismo, anche un burlone. Certo, quando è sotto pressione e deve preparare un appuntamento diventa maniacale come pochi. Lui è anche un campione generoso. Mi raccontava Luca Guercilena, che è il suo team manager a Radio Shack, nonché il suo preparatore, che Fabian è talmente preciso e meticoloso nelle cose che quando si mette in testa una cosa organizza tutto con estrema attenzione. E ad esempio c'era da provare in Svizzera un nuovo body di una nota marca di materiale per ciclisti. Guercilena era in Spagna e ha detto: guarda, tu domani all'1:30 devi essere qua in Svizzera perché dobbiamo andare insieme a vedere, tu mi devi dire se questi materiali vanno bene. E lui dice: guarda, io sono impegnato. Gli ha praticamente prenotato un aereo privato pagandolo di tasca sua affinché Luca Guercilena andasse giù semplicemente per fare un briefing di 40 minuti a verificare un materiale. Questo per dirti che tipo di personaggio è. Poi è estremamente generoso. Gli atleti generalmente sono abbastanza braccini, sono abituati più a ricevere che a dare. Ecco, Fabian è anche in quello è un numero uno. E i compagni di squadra, chi ha avuto la fortuna di correre con Fabian Cellara, è uno che ti tira scemo perché vuole il massimo, ma una volta che ottiene l'obiettivo è uno che ti copre veramente d'oro. Questo non voglio fare l'apologia, però è è veramente uno Spartacus generoso in tutti i sensi, è generoso in bicicletta ma anche di cuore. Grazie Pier, alla prossima. Grazie a voi. Grazie a Pier Augusto Stagi. Tutti convocati. Pronto, mi sente? Dunque, che sia un momento di forti tensioni, lo sappiamo, che sia un momento di forti tensioni, quello della fine del campionato è abbastanza normale. Non riuscirò mai a rassegnarmi alla normalità di un derby di Roma preceduto e seguito dalla guerriglia. Tra l'altro è stato un derby 1-1, come sapete, estremamente importante per Francesco Totti, come poi ha urlato alle telecamere. Questo gol numero 9 è il record che sento più mio, che volevo di più. Dunque sentiamo qualche voce da derby di ieri sera. Al termine della gara noi siamo insoddisfatti perché avevamo avuto l'occasione di portarci a casa 3 punti, abbiamo avuto 3 situazioni favorevoli nitide che purtroppo le abbiamo sbagliate, come ci succede spesso ultimamente, e quindi ci rimane il rammarico. Penso che chi tifava i colori giallorossi questa sera si sente parzialmente soddisfatto, insoddisfatto. Quando ieri è stato fischiato questo rigore io sono andato subito all'alto a chiedergli cosa aveva visto. Mi ha detto: che cos'è questo? Questo è stato fischiato un altro rigore, mi sa che era Zanetti. Quello che avete sentito prima era Andrea Azzoli. Vediamo se possiamo sentire Petkovic e poi Totti. Sì, io vedo il risultato come ho detto già in televisione, come bicchiere mezzo pieno, dove siamo sul livello giusto, perché noi volevamo vincere questa partita. Avevamo possibilità di bloccarla, di chiuderla, non siamo riusciti, abbiamo dato possibilità ad avversario di tornare in partita, ma sono molto contento come squadra. No, purtroppo il primo tempo abbiamo buttato via, non siamo riusciti a entrare subito in partita purtroppo, loro avevano ben messo in campo e ci hanno messo in difficoltà, però il secondo tempo siamo entrati con un altro spirito, un'altra mentalità. Penso che dopo il rigore sbagliato da Hernanes è cambiata la partita. Questo è il record più bello della mia carriera, è quello che ci tenevo più di tutti. Ci sono riuscito, però ancora ho la possibilità di superarlo. E questo era Francesco Totti dopo Andrea Azzoli e Petkovic, bravi nostri amici cinguettatori che hanno intasato il... come si chiama sito? Dei messaggi Twitter? Comunque ne avete mandati un sacco, continuate a seguirci, tutti convocati. Naturalmente, allora sì, il calcio un va bene perché ci sono i complotti, il ciclismo un va bene perché sono tutti dopati. Allora ditemi voi che cosa va bene. Gigi, provincia di Vicenza, Mauro, provincia di Latina, Mario, Ancona, 800240024. Gigi, posso? Sì, che può. Buongiorno. Buongiorno. Sì, volevo intervenire proprio dall'intervento che c'era un suo collega prima che parlava di Cancellara. Sì. E mi stupiva come si continua a parlare di questi fenomeni che fanno dei grandi risultati, che si comportano da grandi campioni, e poi sappiamo tutti che sotto sotto c'è sempre sto benedetto doping che la fa da padrone. E allora mi stupisce che si continui a far finta di niente. Ecco, era solo un intervento molto... Gigi, vabbè, allora cosa facciamo? Chiudiamo il ciclismo, parliamone in maniera molto chiara e ripartiamo dalle persone. Gigi capisce che se io dico vabbè, Cancellara è fortissimo ma tanto è dopato, no? Lei pensa così? Sì, la penso così, perché sono convinto che tutti i ciclisti siano così, nei limiti siano dopati. E allora l'antidoping che lo facciamo a fare? Il passaporto biologico cosa lo teniamo per fare? Allora arrendiamoci, liberalizziamo il doping, oppure chiudiamo il ciclismo a sua scelta, oppure cosa dobbiamo fare? Usiamo la presunzione. Forse sarebbe più corretti se si liberasse di punto colpevolezza. Il doping, visto che è chiaro che tutti lo usano. Vabbè, fino a quel punto, però, se ci sono i controlli che ci sono, se c'è il passaporto biologico, se c'è tutto questo, allora l'impresa di un corridore alla Parigi-Roubaix per me rimane un'impresa sportiva. Se poi mi diranno che è un'impresa tarocca, allora io dirò è un'impresa tarocca. In questo momento Fabian Cancellara ha vinto il Fiandre e la Roubaix facendo dei numeri sportivamente meravigliosi. Poi, non so, aspettiamo che ci dicano qualcos'altro, perché... Io sono giuridicamente sono sempre per la presunzione di non colpevolezza, no? Giuridicamente, come forma mentis. Poi, quando mi dicono che ha sbagliato anche lui, allora sono anche per pene draconiane e dico: se vogliamo fare i seri, li becchiamo una volta e gli stracciamo la patente, nel senso che non possono più salire su una bicicletta. E questa, secondo me, sarebbe una ricetta, una pena draconiana, però sarebbe una ricetta in grado di funzionare, forse. Grazie Gigi. Mauro, provincia di Latina. Sì, salve, buongiorno. Salve. Senta, io sono un tifoso interista e volevo porre una domanda, ma prima volevo fare una piccola premessa, se posso. Sì. Sono molto deluso dalla società dell'Inter, insomma, nel senso che dopo il Mourinho c'è stata una gestione pessima da tutti i punti di vista, insomma, sì. Soprattutto a quello del mercato, insomma, della gestione dei giocatori venduti o regalati, insomma. Sì. C'è stata molta, molta confusione, sì. Molta, molta confusione, ma anche a livello apparentemente dilettantistico, insomma. Beh, viene quasi da sorridere. Dilettantistico, alcune non gestioni, lo so, insomma, alcuni acquisti veramente assurdi. C'è stata molta comunque, confusione, sì. Detto questo, c'è una cosa che mi ha sorpreso nelle due partite di questa settimana dell'Inter, da Genova con la Sampdoria e Inter-Atalanta, in particolare il recupero finale. Io, e questa è la domanda poi in sostanza. A Genova, Inter in vantaggio, 6 cambi, senza gol nel secondo tempo, 4 minuti di recupero. A Inter-Atalanta, 4-3 per l'Atalanta, 5 cambi, 6 gol nel secondo tempo con un rigore molto, molto discusso. 3 minuti di recupero. Questa è una cosa che lascia un po' perplessi. In effetti poi forse il pensiero di Moratti non è completamente da matti, insomma, perché questo del recupero è un po' è concepibile, no, l'errore leggere, umano, perché no, ma insomma, tutto quello che vogliamo. Ma sì, ma possiamo leggere le cose in vari modi. Possiamo, ed è vera la statistica secondo cui l'Inter ha avuto 3 rigori a favore come il Pescara, il Cagliari e la Fiorentina sono quelli che ne hanno avuti di più, con 9, Juventus e Milan 8. Sì, in particolare la Juventus l'anno scorso ha vinto. Del recupero, ma lo so, ma poi Mauro, a pensare male si trovano mille piccoli aspetti che dicono: ah, però vuoi l'ammonizione che non viene data, vuoi il fallo tattico. Se uno la guarda con occhio malizioso, allora poi vale anche questo, no? Vale il conteggio dei minuti di recupero, certamente valgono tutte queste cose che ci portano a guardare la partita con la prospettiva della prevenzione, della malafede, per dirlo alla Moratti. Mario da Ancona, poi dobbiamo chiudere, abbiamo un minuto. Sì, guardi, Paolo Bonolis, 20 anni di carriera per fare la figura di Luca Laurenti, veramente ridicolo, ma non è un problema suo, è una malattia sociale, è l'interismo. L'interismo è una malattia che porta a dare colpa agli altri, a rendere sempre gli altri i responsabili delle proprie sconfitte, dei propri fallimenti, della propria ridicolaggine. Finiti gli effetti del grande Mourinho, sono tornati quelli che sono stati negli ultimi 30 anni, cioè una società ridicola, allenata da un allenatore ridicolo, con un presidente ridicolo. Vabbè, grazie Mario, questo è il suo pensiero. Mi sembra ci sia un po' troppo ridicolo in quanto lei ha detto, però insomma il tifo è anche questo e lo sapete benissimo. Sentiamo domani Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.